Senti che groove. Senti che groove. Senti che Fred. Stai sentendo Radio Virus. Oh cavolo, mi sento bene anch'io. No, perché devi sapere che abbiamo un microfono oggi in due, incredibilmente. Quindi dobbiamo fare delle prove empiriche. Ma sembra che stiamo riuscendo senza particolari problemi tecnici oggi. Sembra quasi che siamo anche nello stesso luogo, data la maestria di Fred nel gestire i problemi tecnici. Madonna, sono troppo un tecnico. Nonostante siamo comunque disgiunti, anche se nel cuore siamo congiunti. Verissimo, verissimo. Poi è questa pasta cucinata da qualcuno molto bravo a cucinare. Comunque sia, torniamo sul nostro tema di oggi. La famiglia. Scusa. Scusate, non ci sono problemi tecnici, ma ci sono dei problemi umani seri. Comunque dicevo, un attimo solo, eccomi, sono da voi. Torniamo sul nostro argomento principale, ovvero le famiglie e le comunità del futuro. Hai visto che Anchorman la Virgi che sono oggi. Bravissima a deglutire. Esatto, bravissima a inghiottire e deglutire qualsiasi cosa. E vabbè, su qualsiasi cosa poi. Detto questo, abbiamo un contributo specialissimo di una nostra carissima amica, attrice, come dicevamo prima, e autrice, nonché scrittrice, nonché persona molto intelligente di cui stimiamo molto l'apporto che porta nella nostra società, che è Laura Tonini, che il 30 aprile di quest'anno, quindi settimana scorsa, giovedì, me lo ricordo perché il primo maggio era venerdì ed era il giorno dopo, visto che precisione che ho anche a livello di calendario, ha pubblicato un articolo su Rivista Studio dal titolo Contro la famiglia. Un articolo davvero, davvero, davvero bello che consiglio di leggere, che parte con un excursus storico sulla la definizione di famiglia, quando nascono, eccetera, eccetera, per poi arrivare alla famiglia dei giorni nostri e diciamo ha una visione critica costruttiva di quello che è il concetto proprio di famiglia, anche rapportato al momento attuale, insomma, di appunto, come diceva anche Virginia, di tutta la questione legata ai congiunti, che ha lasciato comunque aperto uno spiraglio normativo in cui ci si è infilato qualsiasi cosa. Mandiamo il contributo, Virgil? O vuoi reintrodurre anche te, Mi Laura? sembra che tu l'abbia introdotta benissimo, ma manderei il contributo in cui si autointroduce ancora meglio. Ottimo. Ciao Fred, ciao Virginia, grazie per avermi chiamato a parlare del mio articolo. Proverò a rispondere alle vostre domande cercando di rimanere un pochino sintetica. La prima domanda che mi fate è che cos'è la famiglia? Che cos'è la famiglia? È una domanda che sembra semplice, in realtà lo è molto meno, nel senso che nella nostra percezione di questo momento storico la famiglia è la famiglia mononucleare, cioè quella che è composta dai genitori e dalla loro prole, dai figli. Sembra un archetipo millenario, sembra l'unica forma di famiglia mai esistita storicamente. Nella realtà invece è un piuttosto recente, che è collegato a dei processi storici dell'evoluzione della forma famiglia. Infatti la famiglia stessa, come molte altre cose che viviamo, è il prodotto di una serie di evoluzioni di fattori, è il prodotto di un'evoluzione economica, politica, sociale, culturale. Ed è cominciata anche storicamente in un punto abbastanza preciso, che è quello della rivoluzione industriale. Prima di questo, dell'assetto, insomma, urbano che viviamo oggi, c'era appunto la forma famiglia detta di clan intergenerazionale, cioè le persone tendevano bene o male ad abitare nelle campagne e appunto ad avere delle famiglie strutturate in maniera più numerosa, che comprendevano diverse generazioni. Nel momento in cui è arrivata la rivoluzione industriale è cominciato un fenomeno di inurbazione ed è cominciato anche un fenomeno di specializzazione del lavoro. Quindi semplicemente le persone hanno cominciato a lasciare le campagne per andare nelle città e il lavoro stesso ha subito una trasformazione nel suo concetto. Per molti quello che è diventato, prima quello che era lavoro e fatica, è diventato anche qualcosa di diverso, è diventato autorealizzazione, appunto perché la specializzazione del lavoro ha permesso di poter accedere anche a carriere diverse, a studi diversi. E questo ha ovviamente cambiato la percezione di quello che era la famiglia. Improvvisamente il clan è diventato anacronistico, improvvisamente la coppia doveva essere considerata necessariamente una unità economica stabile, abbastanza stabile da poter garantire la procreazione. Questo vuol dire appunto tutta una serie di caratteristiche che poi sono state impiantate in un certo senso, assorbite dall'idea di coppia o di famiglia, quella per cui appunto esiste l'esclusività sessuale in senso stretto, esiste la famiglia solo intesa come madre, padre e figlio, mentre appunto in realtà lo spettro da cui proviene questo assetto è molto più ampio. Secondo me il conflitto più grosso che c'è stato in tempi recenti, nel Novecento in poi, attorno a questo concetto, in particolar modo quando torniamo a parlare soprattutto appunto di autorealizzazione e di capacità di sposarla con la relazione con un altro, con un interesse e con un amore verso l'altro. È stato questo probabilmente il più grande conflitto, quello che stiamo ancora un pochino cercando di risolvere attorno al concetto di famiglia, insomma. Sostanzialmente anche le spinte femministe di questi ultimi periodi, io credo che spingano verso questa direzione, cioè quella di capire che il concetto di famiglia e il concetto di autorealizzazione non sono in nessun modo dei concetti contrastanti, anzi sono dei concetti che dovrebbero essere organici l'uno all'altro, in un certo senso dovrebbero essere l'uno il motore propulsore dell'altro. Per quanto riguarda invece la seconda domanda che mi fate, si parla di struttura della famiglia, cioè appunto di famiglia nella collettività, che è un concetto diverso da quello a cui siamo abituati. Per quanto riguarda la psicoterapia moderna, bene o male tutti fanno risalire ai primi anni di vita del bambino quello che poi è il suo equilibrio psicofisico della persona, quello che poi diventa anche da adulto, la sua capacità appunto di partecipare alla collettività e di vivere una vita sana da un punto di vista di salute mentale. Quello che però si è reso evidente nel tempo è che non è tanto la struttura della famiglia, cioè appunto la composizione stretta della famiglia, a garantire un sano sviluppo del bambino, quanto l'assenza di stress e la qualità delle cure, banalmente, semplicemente la capacità di mantenere un bambino in un ambiente sereno e di rispondere ai suoi tantissimi e vari bisogni emotivi, insomma. Questo è un punto molto importante, perché innanzitutto è una spiegazione, secondo me, anche abbastanza inattaccabile. Contro le polemiche triviali che ci sono sulle famiglie omogenitoriali, per esempio, ci fa capire quanto appunto la struttura in qualche modo classica e patriarcale di padre, madre, figlio non sia necessariamente quella che esaurisce la migliore possibilità per una persona, la miglior possibilità di sviluppo per la persona o la miglior possibilità di risposta ai propri bisogni emotivi. Banalmente, se uno volesse fare un ragionamento che può sembrare paradossale, ma lo è meno di quanto sembri, abbandonare, tra virgolette, un bambino ai suoi genitori biologici vuol dire anche lasciarlo alla mercé delle loro mancanze umane, delle loro incapacità, dei loro difetti, delle loro incapacità in senso lato, vuol dire levargli la possibilità di avere a che fare con un gruppo di adulti che sicuramente potrebbe, anche solo statisticamente, insomma, rispondere meglio a tutte le diverse necessità che ha un bambino. Ecco perché appunto la forma collettiva in un qualche modo secondo me deve tornare fra i centri della riflessione, ecco perché sicuramente l'esperienza comunitaria ha avuto i suoi limiti e ha avuto le sue ingenuità, però ha mostrato dei punti di forza che secondo me sono incontestabili, insomma, è anche, credo, più o meno da lì che deriva un concetto di famiglia d'elezione, no? Che è un po' quello che ci fa inorridire quando durante una pandemia mondiale scopriamo che i nostri congiunti sono solo quelli legati a noi dal sangue. Sono ovviamente argomenti molto complicati, però secondo me ha senso provare a riaprire la possibilità, anche solo la concepibilità in un certo senso, di scenari diversi a livello di cellule familiari, di strutture familiari, di strutture abitative. È un campo di riflessione che secondo me nei prossimi anni dovrebbe essere particolarmente interessante. Spero di aver risposto alle vostre domande con una chiarezza minima. Ciao! Ah, perfetto! È finito l'audio prima che pensassi, perché in differita, a distanza, non siamo riusciti a capire bene quando è che finiva. Scusate, vabbè, al di là di questo, ma chi se ne frega, infatti, chi se ne frega, comunque sia. Beh, grazie Laura. Assolutamente grazie Laura, ti ringraziamo tantissimo per questo contenuto. Hai risposto benissimo alle domande che ti abbiamo inviato ed è stato un piacere ascoltarti. E ricordiamo che per chi volesse può approfondire questi concetti nel tuo articolo Contro la famiglia, uscito per Rivista Studio. È uscito il 30, invece il giorno prima è uscito un altro articolo da cui molto probabilmente Laura ha copiato perché è uscito un giorno prima, quindi un giorno l'ha prima, letto, e come sto facendo io da Virginia adesso, insomma, sto copiando, oltre che mangiando ancora, sputando adesso Virginia. Cioè, non addosso ovviamente, perché siamo molto distanti, quindi insomma non vorrei dare l'impressione. Vi ricordo, diciamo, che Fred è ancora in zago. Assolutamente. E, insomma, è uscito un altro articolo il giorno prima, da cui Laura ha chiaramente copiato, che è uscito su Internazionale. Si intitola "E se", sì, io da una domanda, "E se ricominciassimo dall'iperfamiglia?" Bellissima, tanto bellissima parola, iperfamiglia. L'autrice di questo articolo è Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, che dopo il contributo sarà con noi in diretta. Attenzione. Quale contributo? Quello che vuoi, Fred. Ok, va bene. Domando tra 3, 2, 1, you suck. I don't mean to be rude, but honestly, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. I can list the ways in which you suck, you suck, you suck, you suck, you suck, you suck. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. I don't mean to be rude, but honestly, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. I can list the ways in which you suck, you suck, you suck, you suck, you suck, you suck. Sometimes I pretend like I don't know your name, like is. Trust me, there's no bottom to how low and petty. I don't mean to be rude, but I want you. Wait, no. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. I can list the ways in which you soak you, soak you, soak you, soak you, soak you, soak you, soak you, soak you, soak you, soak you. Wonder is it obvious that I'm just crushing, crushing. Siamo qua al telefono con Annalisa Camilli, l'autrice dell'articolo E se ricominciassimo dall'iperfamiglia, uscito la settimana scorsa su Internazionale, che vi invitiamo a leggere. Ciao Annalisa, benvenuta. Ciao Annalisa. Ciao, ben trovati. Come stai? Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Tu sei a Roma? Dove? Sono a Roma, sì. Che aria si respira a Roma in questo momento? Si fatica a capire, diciamo così, che cosa consista questa fase 2, quindi c'è molto disorientamento, molte più persone che provano a uscire con molti timori, ma anche molte persone che invece hanno paura, diciamo così, a riprendere una normalità, diciamo così, che ha pochi punti di riferimento per il momento, poche indicazioni, anche un cronoprogramma, diciamo così, poco chiaro, e delle indicazioni sanitarie poco chiare, quindi grande incertezza. Per fortuna, diciamo, la bella stagione ci viene un po' in aiuto, per cui belle giornate e una primavera che è esplosa, diciamo così, però c'è un clima di grande incertezza, devo dire. Allora, senti, noi abbiamo letto con molto piacere il tuo articolo sull'iperfamiglia e vorremmo proprio iniziare a parlarne dal termine che utilizzi. Ci aiuti a capire che cosa si intende per iperfamiglia? Ma proprio riflettendo su questa fase 2, cosiddetta fase 2, molti, no, hanno detto non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. In qualche modo la pandemia, l'emergenza sanitaria ha fatto esplodere molte delle contraddizioni in cui viviamo, penso soprattutto alle disuguaglianze, alle differenze di classe, alla sproporzione, diciamo così, di risorse e di mezzi che durante l'emergenza sanitaria è emersa in tutta diciamo, la sua violenza, la sua ferocia, tra le persone che sono potute rimanere a casa e quelle che non avevano una casa, per esempio. Mm-hmm. Tra le tante cose, appunto, pensando a questa fase 2, quando il Presidente del Consiglio ha annunciato, Giuseppe Conte ha annunciato quali sarebbero stati i termini della fase 2, ha molto insistito su questo fatto che si sarebbero potuti andare a trovare con congiunti. Poi, usando il termine, lui da giurista, diciamo così, da professore di diritto, un termine che non esiste, diciamo così, nemmeno nel diritto italiano, se non nella parte penale, nel diritto certo. Penale, un termine che già di per sé, appunto, è molto molto vago, e è scoppiata, diciamo, nelle ore successive a quella conferenza stampa proprio una polemica sul senso, sul significato della parola congiunti, tanto che poi il governo ha dovuto chiarire con una serie di domande e risposte, Palazzo ha dovuto chiarire, e nel chiarire però ha creato ancora più confusione, certo. No? Ha cominciato a parlare di affetti stabili. Esatto, ci siamo interrogati. Molta ironia, sì. Su questo. Ci siamo interrogati tutti quanti su che cosa siano questi affetti stabili, cosa vuol dire, chi è affetto stabile, chi è il nostro congiunto. Diciamo, il governo si era addentrato, il legislatore, il governo, sarà addentrato in un territorio in cui è da lì che nasce la mia riflessione, probabilmente non ci si dovrebbe addentrare. La mia riflessione nasce proprio da questo, cioè cominciamo a pensare che cosa dovrebbe essere la fase 2 in un senso un po' più largo. Cominciamo a pensare quali appunto contraddizioni sono esplose durante l'emergenza sanitaria, che probabilmente erano lì già da prima, e però durante un momento così difficile, di difficoltà così grossa, sono diventate ancora più evidenti. Una di queste contraddizioni è proprio la definizione di famiglia naturale. Una definizione che però appunto in Italia in qualche modo viene rispolverata proprio in momenti di difficoltà, in momenti di crisi. Certo. E l'altra contraddizione è che sia lo Stato a dover definire quali sono le relazioni fondamentali, diciamo così, sì, che costituiscono la vita di un individuo. Allora io dicevo, proviamo invece a riflettere su quello che dovrebbe essere, su quello che abbiamo imparato anche da questa emergenza sanitaria. Quello che abbiamo imparato, dico io, è quello che i più vulnerabili sanno da sempre, e cioè che un individuo è costituito da molte relazioni fondamentali, e la sua salvezza spesso, anche proprio la salvezza della sua vita, è affidata al mantenimento, diciamo così, di queste relazioni, e solo alcune di queste relazioni possono essere fatte rientrare nella categoria di famiglia naturale, diciamo così. Solo alcune di queste relazioni sono rapporti che vengono biologici, diciamo così, sì, che vengono dai legami di sangue. Tu tra l'altro fai anche l'esempio della tua nascita, che è interessante. Io racconto appunto, per una volta, e non lo faccio mai, però per una volta racconto anche l'esperienza di mia madre, che appunto doveva fare un parto cesareo, in realtà si è trovata in difficoltà perché le si sono rotte le acque, nonostante fosse programmato un parto cesareo molto tempo prima della scadenza, e si trovava sola in casa, e quindi ha dovuto chiamare dei suoi amici, quindi non la famiglia naturale, né la famiglia, diciamo, istituzionale, contratta, ma amici che l'hanno portata in ospedale, e che se non ci fossero stati, appunto, io non, forse insomma, non sarei nata, o comunque avrei avuto dei problemi, diciamo così, a nascere in salute. Sarebbe andato tutto diversamente, sì. Sarebbe andato probabilmente tutto diversamente, invece, come spesso succede nella nascita e nella morte, e anche durante l'epidemia, mi è capitato di intervistare, soprattutto in Lombardia, soprattutto a Bergamo e a Brescia, o comunque nei territori più colpiti dal virus, dalla pandemia, ho raccontato le storie, per esempio, di persone single che si sono ammalate, o di anziani soli, che hanno potuto contare soltanto sui medici di casa, sugli amici, su una rete, diciamo, di relazioni che andava oltre la famiglia, perché magari con la famiglia, con i genitori anziani costretti a stare in casa, appunto, per il rischio di contrarre il virus, o con i genitori anziani in ospedale, alcune hanno dovuto, appunto, se non avessero avuto degli amici che li portavano le medicine, che li portavano la spesa, non sarebbero sopravvissuti. Certo. Comunque se la sarebbero cavata molto peggio, diciamo così. Avrebbero dovuto chiedere l'intervento delle istituzioni che tra l'altro in questo frangente, in questo caso, in ogni caso, diciamo così, hanno tardato ad arrivare, e questo è un po' anche il paradosso, cioè in un paese in cui molto chiaramente si definisce la sfera della famiglia naturale, la istituzionalizza, e per altro verso appunto la sfera pubblica, la sfera dello Stato, in realtà sono proprio le relazioni informali che in certi momenti storici diventano addirittura illegali a rappresentare delle forme di soccorso, no? E di salvavita per le persone. E questo appunto l'abbiamo visto a tantissimi livelli, e questo io credo che in qualche modo apra appunto una discussione sulla società che siamo, ineguale, diseguale, fortemente diseguale, e però sulla società che è già qui e che vorremmo essere in qualche modo, no? Che vorremmo sempre di più. Certo. Che avesse una forma di riconoscimento, diciamo così. Sì. Annalisa, proprio su questo ti aggiungo che in questo, diciamo, lavoro di rete e di assistenza, qua a Milano è ben visibile dal lavoro che stanno svolgendo i volontari, le volontarie delle brigate, volontarie per l'emergenza, ed è un lavoro di cura che rientra in tutti quei lavori un po', diciamo, invisibili, che è difficile, a cui è difficile riconoscere un valore. E volevo proprio, provare a interrogarti su questo, insomma, su quanto sia importante il lavoro di cura. Diciamo che l'hai ben descritto, ma su una domanda che un po' a cui ogni tanto si ritorna, su cui ogni tanto si ritorna, che è proprio come è possibile riconoscere questo lavoro, appunto, il valore di questo, anche economico, insomma, di questo lavoro di cura, che è un lavoro invisibile, ma che è quello che poi tiene insieme anche proprio le relazioni sociali, e che in momenti come questi poi è quello che aiuta tante famiglie nel concreto a sopravvivere. Sì. E che è un lavoro che tra l'altro soprattutto è fatto da comunità che nascono dal basso spontaneamente, anziché essere fatto dallo Stato. Questo io direi che sia, io penso che questo sia il sistema centrale, che sia stato il tema centrale durante l'emergenza sanitaria e che di nuovo sia e debba essere il tema centrale per pensare qualsiasi forma di ripartenza, rinascita. È emerso, diciamo, che i corpi e le loro vulnerabilità, la malattia, la possibilità di morire, la nostra mortalità, sono in qualche modo completamente nascosti, dimenticati, invisibili rispetto al sistema produttivo nel quale viviamo. E però appunto cioè, c'è voluta una malattia così pervasiva, così improvvisa, così pericolosa per far emergere come invece i corpi e le relazioni siano centrali nella gestione della vita degli individui. E quindi delle società, nella salute, diciamo così, delle società. E questo di nuovo ha fatto emergere enormi contraddizioni. Per esempio, che tutto il lavoro di cura è affidato a persone che non hanno diritti, penso alle babysitter, alle colf, alle badanti, che sono sparite in questa pandemia e hanno creato enormi problemi alle famiglie che si sono dovute sobbarcare il lavoro di cura dei corpi. Un lavoro di cura che spesso è affidato ancora oggi alle donne, anche alle donne che lavorano all'interno della famiglia, e che quindi con la pandemia hanno dovuto portare sulle loro spalle un carico che da subito, diciamo, è stato fortemente superiore a quello appunto e non riconosciuto. Quindi molte donne si sono trovate a dover magari lavorare da casa, dovendosi occupare della casa, perché appunto chi magari era delegato alla cura della casa non ha potuto intervenire, e alla cura dei figli, che di nuovo nel nostro sistema sono affidati alla scuola, ai nonni e alle babysitter. Quindi questa centralità improvvisa, diciamo così, del lavoro di cura ha messo in crisi per certi versi il nostro sistema, però allo stesso tempo è un'occasione per riflettere sulla centralità della cura e ripensare a un sistema produttivo che metta la cura al centro e quindi riconosca il lavoro di cura come fondamentale, come centrale, come imprescindibile. E Totalmente riconosca d'accordo. quindi soprattutto alle donne e alle donne che lavorano il diritto, diciamo così, di vedersi riconosciuto il lavoro di cura e anche di delegarlo a delle figure professionali che devono essere pagate, retribuite, e però ripensarlo proprio, no? Ripensare la Certo. società a partire da quel lavoro di cura. Assolutamente, assolutamente. Sei stata molto, molto E questa chiara. vulnerabilità, in fondo, diciamo, questo è un tema centrale in tutto il pensiero femminista contemporaneo, anche questo è abbastanza interessante. Che in realtà appunto forse non saremmo sopravvissuti in questa emergenza sanitaria se non avessimo rimesso al centro la vulnerabilità, la cura delle persone, la cura dei corpi. E però quando si è ripensata alla ripartenza nelle varie task force ci sono pochissime donne, pensiamo quanto sono stati anche trattati con la retorica dell'eroismo, i medici, le infermiere in prima linea negli ospedali, si è usata moltissimo la retorica della guerra, la maggior parte del personale sanitario è fatto da donne, eppure nella task force, nei gruppi di esperti per la fase 2, per la cosiddetta fase 2, ci sono pochissime donne, quindi non si vede come si possa ripensare, diciamo così, una ripartenza, si possa ripensare una società nuova dopo essere usciti o aver attraversato una crisi così profonda, senza appunto pensare che questa parte qui non può essere dimenticata, non può essere resa invisibile. Assolutamente d'accordo. Hai fatto un intervento direi completo a 360 gradi su tutto, quindi commovente, è stato davvero davvero, ti possiamo solo ringraziare per essere stata con noi e per le parole che hai detto. E spero che tu sia contenta di sapere che tutte le ospiti del nostro programma di oggi sono donne, quindi siamo in netta maggioranza, almeno in questo territorio. Dateci voce. Grazie mille Annalisa, in bocca al lupo per a tutto presto, e stacci bene, ciao. Ciao. Dire, siamo ancora, nonostante siamo distanti, io e Virgi, siamo ancora diciamo uniti nell'essere commossi dall'intervento di Annalisa, che è stato davvero illuminante e che ricordo potete diciamo leggere anche se in forma ridotta, perché è stata molto più esplicita durante questo intervento in radio, nel suo articolo su Internazionale, cioè uscito per Internazionale il 29 aprile, e se ricominciassimo da lì per famiglia. E passiamo alla terza grande donna di questa puntata, che è una professoressa associata della facoltà di sociologia del territorio. Adesso ce la facciamo in due, che nonostante siamo distanti riusciamo a coordinarci, perché era molto complesso. La facoltà di sociologia dell'ambiente e del territorio dell'Università di Milano Bicocca. Parliamo con Marianna Dovidio. Sì, che non è potuta essere con noi live perché aveva una lezione e quindi di cui abbiamo registrato il contenuto che ora stiamo per... Con molta calma mandare. Allora, buongiorno, innanzitutto ringrazio per questo invito. Io mi chiamo Marianna Dovidio, lavoro all'Università di Milano Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, e mi occupo di città, di sviluppo locale delle città e di quello che gira intorno a cultura e creatività e allo sviluppo locale in generale. Questo è un po' quello che faccio. Allora, parto con una domanda a gamba tesa. Tu hai scritto un saggio sulla città creativa e leggendolo mi è venuta in mente la linea del Comune di Milano, quella che ha adottato soprattutto all'inizio, quella del Milano non si ferma, e invece poi adesso diciamo che le cose sono insomma, si sono evolute così come si sono evolute, e soprattutto che l'industria culturale, diciamo l'industria creativa, si vede che è quella che di più sta subendo anche le conseguenze, anche solo per il fatto che pare che sarà l'ultima a ripartire. Tu come pensi che si possa riorganizzare una partenza che tenga conto anche della centralità della cultura e della creatività, ma in un modo molto più politico per quanto riguarda allora, la città? Vabbè, questa è ovviamente la domanda da milioni di dollari, come si dice. No, ovviamente non lo so come si può ripartire. Messo in fila un po' di cose che stanno succedendo e che temo che succedano, e sto provando un po' a ragionare magari sui meccanismi che fanno funzionare determinate cose e che adesso non si riesce più a far funzionare, no? Uno dei meccanismi principali, diciamo forse sono due i meccanismi principali di economia che sta dietro la cultura e la creatività: uno che sta nella produzione e uno che sta nella fruizione. Quello più semplice è quello della fruizione. Ovviamente noi dobbiamo essere lì per godere di al meglio di uno spettacolo teatrale, di un concerto, eccetera. Quindi c'è proprio, un'esigenza di presenza fisica, che perlomeno c'è un'esigenza di presenza fisica perché è sempre stato così. Vado un po' veloce su questo. E poi il meccanismo, quello che è stato anche studiato tanto su invece sulla produzione di cultura e creatività, anche questo ha a che vedere con la presenza fisica, cioè i famosi contatti faccia a faccia che le persone che producono cultura o che devono avere sempre nuove idee tendono ad avere sia tra di loro sia con persone che fanno altre cose, cioè proprio l'idea dell'ibridazione dell'idea, l'ibridazione della cultura. La sociologia fin dai suoi inizi ha ragionato proprio su questo, cioè l'incontro con lo straniero, diceva Georg Simmel, che avviene nelle città è fondamentale perché la differenza fa scaturire nuove cose. E questo secondo me è forse il problema principale che bisognerà cercare di risolvere in questi settori. Perché è molto difficile, poi magari ne parliamo un po' meglio, però già è difficile avere contatti mediati, con le persone che conosciamo, è molto difficile incontrare persone che prima non conoscevamo incontrarli su tramite computer tramite digitale. E tornando alla parte più, fisica, concreta di interazione sociale, c'è un rischio che stiamo vedendo in questi giorni di, disgregazione, di isolamento e di segregazione soprattutto di alcuni gruppi sociali. Sì, segregazione, esatto. Che sono quelli che sono banalmente meno coperti anche da aiuti statali. Sto pensando alle persone che ad esempio non hanno documenti, che non riescono ad accedere agli aiuti, e in questo senso si sta muovendo una rete solidale che sta creando anche dei nuovi nuclei all'interno della città da cui ripartire. E tu come pensi che si possa risolvere il problema della segregazione sociale in un momento in cui ci viene richiesto di stare lontani gli uni dagli altri, di essere segregati, insomma? Sì. Allora sì, il problema emerge, è emerso con grandissima forza ed è un problema tipico, secondo me è proprio forse uno dei problemi principali della nostra società, è quello di essere composto di, tendere a una composizione di tante piccole comunità, per cui se uno è fortunato, ha risorse e sta, nella comunità giusta, gli va solo bene. Se uno è sfortunato, non ha risorse, non, si ritrova isolato, si ritrova completamente isolato. E qui, come dire, si è visto come al solito che la società in realtà reagisce molto bene, o come dire, ogni tanto reagisce molto bene, non sempre purtroppo, e queste comunità di persone, diciamo, che si autoaiutano, che hanno risorse, si rendono conto che ci sono persone che invece risorse non ne hanno e provano ad allargarsi anche a queste persone. Io lo ritengo, come dire, una cosa bellissima ma profondamente ingiusta, nel senso che vivendo in uno stato di diritto io sono convinta sempre di più che dovrebbe essere lo Stato che si occupa di tutti i cittadini e di tutte le persone, non aspettare il buon cuore delle comunità che si occupano di quelli che dentro la comunità non ci stanno, e direi forse non ci stanno ancora, per includerli. Però, come dire, dobbiamo anche prendere e renderci conto di quello che sta succedendo, e spesso lo Stato non è assolutamente in grado di vedere determinate questioni o non è in grado di risolvere determinati problemi. E qui, come dire, emergono delle bellissime realtà, che però, ripeto, sono realtà che emergono, ma cioè, come dire, non dovrebbero, non bisognerebbe che ci fosse il bisogno, no? Perché non dovrebbero essere risolti i problemi che queste comunità risolvono, dovrebbero essere risolti in altri modi. Quello che secondo me almeno un governo anche forse locale della città dovrebbe fare è rendersi sempre più conto della presenza sia delle domande che delle risposte, no? In qualche modo, quindi dei problemi legati alla segregazione, e di capire che tipo di risposte vengono date e andarci dietro, ma non aiutare quelli che si attivano, ma capire perché delle comunità si attivano e verso cosa si attivano, per cui lo Stato, come dire, inteso come il governo pubblico, non si era reso conto di quelle situazioni e correre un po' ai ripari. Quindi io credo che uno Stato intelligente debba stare molto molto con gli occhi aperti e imparare tanto da quello che vede della società, sì, delle comunità, diciamo, più che della società, delle comunità. Ti faccio un'altra domanda grossa, che è una domanda che faccio anche a me stessa da un po' di tempo. Noi negli ultimi decenni soprattutto siamo stati dominati da una visione, diciamo, abbastanza distopica della società, quindi tutto quello che è uscito a livello di letteratura, di saggi sul futuro della nostra società era molto pessimista, e anche l'immaginario futuristico che dominava era quello steampunk, no? Di queste città buie. E, nel momento in cui tu ti fai un'immagine di come sarà la nostra società in futuro, soprattutto alla luce di queste cose che stiamo vivendo adesso, hai una visione, diciamo, simile, oppure hai una visione che comunque apre anche a prospettive un po' più utopistiche? Allora, io ho questa doppia personalità, diciamo, che tendenzialmente sono una persona ottimista, però se devo pensare in realtà al futuro o devo pensare alla società, quello che mi viene in mente è cercare di vedere quali sono i nodi problematici, no? E quindi di fatto poi ho sempre questa idea di città un po', sì, cioè, diciamo che Blade Runner, ma anche Gotham City, giusto per fare delle citazioni un po' più, come dire, simpatiche. E uno dei rischi, secondo me, delle nostre città, che però può anche essere, come dire, visto, girato in chiave positiva, è quello appunto che, un po' come accennavo prima, si trasformino in un assemblamento di tante comunità. Che quindi hanno, come dire, dei risvolti molto positivi, no? Per cui forte solidarietà interna, eccetera eccetera. Il rischio che appunto, come si diceva prima, è quello di forti divisioni, Quindi città in cui ci sono appunto quartieri che diventano quartieri comunità, e che però ospitano, diciamo, tra una comunità e l'altra una, dei deserti sociali di individui soli e abbandonati a se stessi. Questo è, come dire, no? Uno scenario magari particolarmente negativo, però un po' io sto vedendo già così la nostra società adesso, senza esasperare il tema sia da un lato che dall'altro, no? Città in cui gruppi di persone non necessariamente localizzati nello stesso luogo, adesso diciamo con la pandemia forse invece questo tema della vicinanza fisica o prossimità, diciamo, dei quartieri aumenterà, però un po' l'idea, dicevo prima, di gruppi di persone che condividono tantissimo della loro vita e che si riconoscono l'un l'altro, che hanno valori simili, cioè proprio che costruiscono delle vere e proprie comunità urbane. E che rappresentano, come dire, gran parte delle persone che abitano le città. E siamo sempre qua. Il problema sono quelle persone, quegli individui che senza risorse si ritrovano anche senza comunità. Certo. Quindi ecco, la visione, diciamo, pessimista va più nella direzione dell'esistenza delle persone senza comunità, ecco. Mentre la tua visione, diciamo, più ottimistica, so che tutti i grandi pensatori hanno la città ideale in mente. Quale sarebbe? Non essendo una grande pensatrice, non ho una città ideale. No, diciamo che quello che io mi auguro è che come dire, che ci sia un dialogo fruttuoso, positivo e costante tra comunità di cittadini e governo della città, e che il governo della città si adoperi il più possibile per fare in modo che le comunità dei cittadini siano sempre più aperte, si costruiscano, come dicevamo prima, no? Non sulla chiusura ma sull'apertura, si costruiscano sulla base di valori che vanno nella direzione dell'uguaglianza, della democrazia, e che però il governo, come dire, io non sono un'anarchica, io, come dire, mi aspetto che lo Stato intervenga, certo. Ma che lo Stato intervenga, come dire, in maniera molto innovativa, adesso si usa molto questo termine, questo intelligente, cioè capendo le risorse che ha nelle comunità, e però non soltanto aiutando le comunità che hanno più risorse a stare bene tra di loro e dimenticandosi di tutto il resto, certo. Ma aiutando le comunità ad aprirsi, sì. No? Ecco, quindi, come dire, cercando, come dire, avendo molto chiaro che esistono tutta una serie di problemi e di soggetti che forse in comunità non ci stanno o non ci stanno ancora. Ecco, questa è un po' la mia visione, così, quello che mi piacerebbe che fossero le città. Senti, ti ringrazio tantissimo, Marianna, dell'intervento. Grazie a te. A presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao. Ringraziamo tantissimo Marianna Dovidio per essere stata con noi, ringrazio anche Virginia che ha ringraziato già nell'audio a sua volta Marianna Dovidio. Io ringrazio te, Fred. Grande Virgi, mi raccomando, stiamo sempre distanti. Ringraziamo le famiglie, sia quelle di sangue, diciamo, che quelle che ci creiamo durante la nostra vita. E niente, ringraziamo anche i nostri compagni e le nostre compagne di Napoli che ci hanno lasciato questi due che diventeranno 5 minuti extra e che dopo di noi... Asse Milano Napoli, sempre potentissima. Assolutamente, che dopo di noi andranno in onda col loro programma Quarantella Stereo Live. E ora ci lasciamo con la nostra solita musica di chiusura, che è Se ci sarai di Cesare Cremonini, con a un certo punto un mix. Una sorpresa inventata da Fred. Alla prossima settimana. Ciao. Solo per te. Se non velo di te. Noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario, e abbiamo visto quanti dovevano spiegare cosa c'è. Il mio lavoro, non ci sono tante cose che si devono fare. Bellissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Questo è il punto, non è un socio-economico. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Questo è il punto, non è un pezzo, non è una voglia, è una profondissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Questa è bellissima crisi socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Questo è socio-economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Questo è il punto, non Milano ha bisogno di andare indietro e stare senza di te, io non potrei. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare.